Sono il sindaco Walter Veltroni. Per tanti Roma è una meta desiderata, con le sue mille occasioni di vita culturale, di divertimento, con la sua bellezza archeologica e storica. Puoi arrivare quando vuoi, però guida con calma, che tanto correre non serve, noi ti aspettiamo. Campagna a cura del governo, Ministero dei Trasporti.